con te. Me voglio mostrarmi la via, la pace, la serenità. Accendi ogni melodia e resta qua, e resta qua. Sole che scaldi la mia anima, ti prego non sparire, resta dentro me. Sole che salvi la mia isola, liberami dal male, portami con te. Nel buio mostrami la via, la pace e la serenità. Accendi ogni melodia e resta qua. Se scrivo una roba la scrivo seria, non faccio rap tecnico fino a se stesso per fare scena. Mai, io lo creo vero perché ho utilità. Non lo faccio per comprarmi un utility car. Tu lo fai per soldi, io per tutti, tu per guadagnarci, io per dare aiuti alle anime, soprattutto in vena, perché sono in vena di cambiare il mondo, cambiando in versa questa scena. Chi è con me mi segua, perché un singolo può cambiare anche una società intera. Chiamami utopico, ma voglio cambiare questo iniquo sistema diabolico, dove chi ci rimette sempre il povero, il potente ride, e c'è chi a stento sopravvive. E in questo, dove sono i rapper, dove sono ad autocelebrarsi, mi fate ridere. Così non va, lo so, non è una novità. La soluzione è uscire dalla materialità. Uscire dalla materialità. Uscire dalla materialità. Vivere i sogni e le passioni. Siamo più di quello che sembra. C'è chi pensa che siamo solo membri di esistenza cerebrale. Spara stronzate, chi accenna il pensiero di un'esistenza solo materiale. E riduce tutto quanto a consumare, favorendo il controllo globale. Anti-illuminati per sconfiggere il sistema. Anticorruzione perché c'è chi ancora spera. L'amore è ciò che ci conduce verso il meglio. Un vettore con il verso opposto a sto mondo, l'inferno. Io rimango sveglio, non c'entra il mondo onirico, ma la spiritualità in questo mondo fisico. Questo non ve lo dico, no, per tapparvi gli occhi, quindi occhio al pericolo. Io sono qui con tutti gli altri. Il mio rap tradotto infatti significa svegliarci. Così non va, lo so, non è una novità. La soluzione è uscire dalla materialità. Uscire dalla materialità. Uscire dalla materialità, vivere i sogni e le passioni, curarsi la realtà. Che una medicina curi nel profondo, che i soldi sia la meta di sto mondo. Non vedi tabacco e alcol ammazzare gente, sotto il monopolio statale. Mentre ti fumi le tue sigarette, pensa chi te le vende, sappi che ti vuole male. Dimmi se una madre le venderebbe ad un figlio affinché si ammali di malattie letali. E qui il discorso si estende a tutte le schifezze di sempre. L'importante è rimanere buoni in corpo, anima e mente, per fottere in toto chiunque ci mente. Evidentemente bisogna cambiare, cavalieri del bene per sempre. E tu che scegli il male, sarai in un mare di soldi. Ma ricorda che l'amore non lo puoi comprare. Così non va.